Orbán e i pieni poteri. C'è chi applaude, pochi, e chi si indigna, tanti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. A law that Hungary's Prime Minister Viktor Orbán says will help fight a pandemic. Viktor Orbán is perfecting a kind of new style of politics, single party rule. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro quotidiano osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra di Nessun Luogo Lontano: Antonio Tagli, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Claudia Schiattone e in console c'è Peter Bescapè. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp per domande, commenti e anche critiche, perché no? Vi ricordo le poche semplicissime regole per partecipare al dibattito qui a Nessun Luogo Lontano. Non ammetto blasfemie, commenti misogini, razzisti né turpiloquo. Per il resto liberissimi di scrivermi. Vi leggo qui al 349-238-6666, ma anche su Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se amate Twitter, gli account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Come avete sentito dai titoli, ha destato parecchio scalpore politico e non solo la decisione e l'approvazione da parte del Parlamento ungherese di una nuova legge che conferisce i pieni poteri a Viktor Orbán. Stato di emergenza, hanno detto alcuni, quindi giustificate anche misure di emergenza. Il problema è che non c'è un limite temporale e questo sta facendo venire un po' di mal di pancia a tanti politici, non soltanto in Ungheria, ma anche a Bruxelles. Su questo vi invito a commentare, perché al di là del principio caso ungherese, ancora una volta si rimette in discussione l'apparato dell'Unione Europea, quanto ci si può distanziare dai valori fondanti della stessa Unione Europea. Grazie agli ospiti di quest'oggi partiremo dal caso ungherese, come sempre la storia più piccola, più locale, poi invece la grande analisi, con un giurista esperto di diritto europeo cercheremo di capire quanto valgono i meccanismi e le normative europee per andare a sanzionare magari quei paesi un po' riottosi, guarda caso lo è stato anche l'Ungheria in passato. Detto ciò, la prima cosa da fare anche quest'oggi, Peter, è andare a sfogliare i nostri dossier internazionali. La prima notizia che ha catturato la nostra attenzione in verità risale a qualche ora fa, ma si è dipanata quantomeno nei suoi effetti nelle ore più recenti. E infatti di venerdì mattina la notizia che la Francia con alcuni alleati europei ha istituito ufficialmente una nuova task force denominata Takuba, è una parola tuareg che significa sciabola e già il nome ci fa capire dove andrà a operare questa nuova task force. Sono tutte forze speciali che andranno a supportare la operazione Barkhane e le forze congiunte del G5 del Sahel. Siamo dunque in Sahel, l'obiettivo sono i tanti gruppi jihadisti, alcuni affiliati ad Al-Qaeda, altri affiliati allo Stato Islamico. Non ci stancheremo mai di ribadire che il Sahel lo stiamo tenendo d'occhio da parecchi mesi, proprio perché in questo strano paesaggio fatto di deserti, di confini porosi, ebbene si sta realizzando in maniera forse più sporadica, non così evidente, non così plastica, quello che ha tutti gli effetti, quantomeno il prodromo di un nuovo califfato. I paesi coinvolti, dicevo, in questa nuova in questo nuovo impegno, in questa nuova missione militare, sono Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Portogallo, Svezia e Regno Unito. In particolare hanno battezzato quello che è un settore operativo particolarmente fragile e nevralgico, è la regione transfrontaliera di Liptako, che è l'area tra Burkina Faso, Niger e Mali, che è una roccaforte di molti jihadisti. Mentre però il dispositivo militare si allestiva, veniva quasi messo in campo, si facevano risentire gli jihadisti stessi nel nord-est del Burkina Faso, uccidendo 3 gendarmi, è un corpo di polizia paramilitare, ferendone altri 3. La località si chiama Gomboro, le stesse autorità locali hanno riferito di questo ennesimo attacco. Lo sapete, ormai il bilancio delle varie attività di questi gruppuscoli jihadisti più o meno affiliati ai due grandi brand ormai del terrore, Al-Qaeda e ISIS, hanno fatto centinaia di morti negli ultimi anni. Stanno già arrivando i primi messaggi al 349-238-6666. Fra pochissimo, naturalmente, ve ne darò conto. C'è già qualcuno critico rispetto a Ursula von der Leyen al suo tweet. Ci arrivo tra pochissimo, abbiate pazienza, avremo 40 minuti pieni per parlare di Ungheria e di quello che secondo alcuni è stato a tutti gli effetti un colpo di Stato, ma scopriremo che, come al sempre, come spesso accade, la verità è molto più complessa. Noi che amiamo i chiaroscuri cercheremo di restituirveli. Torniamo ai nostri dossier internazionali, perché il secondo ci arriva dall'Iran ed è una notizia storica, forse passata un po' in sordina. È anche forse un po' troppo fresca per una sua elaborazione. Comunque è di poche ore fa, di questa mattina, la notizia che alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, hanno consegnato forniture mediche all'Iran grazie a un meccanismo che si chiama INSTEX, Instruments in Support of Trade Exchange, che sostanzialmente è un escamotage per aggirare le sanzioni statunitensi a Teheran. Come sapete, l'amministrazione di Trump è particolarmente ligia non soltanto nel far osservare le sanzioni statunitensi, ma anche nel punire, rimbrottare quei paesi europei che intentassero di aggirarli. Al momento la situazione coronavirus in Iran vede 44.606 casi confermati, sono dati ufficiali e potete mettere tutti i punti di domanda che volete, evidentemente, mentre le vittime sono 2.898. Il tutto arriva, e ci spostiamo sul piano politico, non strettamente sanitario, dopo che, vi ricorderete, l'invito di Donald Trump a mandare aiuti a Teheran e la grande guida spirituale Ali Khamenei aveva cortesemente, garbatamente rifiutato. Questo strumento, l'INSTEX, è uno strumento che è stato creato da quello che era l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, non Borrell, ma il suo predecessore, cioè Federica Mogherini, che si era parlata, era ormai il 2018, col ministro degli esteri Zarif, che aveva concordato sostanzialmente, come vi dicevo, un escamotage di commercio per appunto poter aggirare le sanzioni e l'embargo, tutti gli effetti imposto dagli Stati Uniti, a maggior ragione in una situazione delicata come questa. È utile ricordare che è una pandemia e quindi ogni paese evidentemente va aiutato dalla stessa comunità internazionale, perché altrimenti, se si lascia qualcuno indietro, la pandemia non verrà mai sconfitta. Bisogna isolare tutte le sacche, tutti i focolai, per poi sconfiggerli. Due notizie che arrivano dal Mediterraneo, in particolare dal Mediterraneo centrale e dal Mediterraneo orientale. Da un lato, sono alcune ore che circa 200 probabili richiedenti asilo siriani sono vicino alla costa di Cipro Nord, dopo che sono stati respinti sostanzialmente dalla parte sud dell'isola, in omaggio a quelle che sono le misure di sorveglianza e soprattutto di cautela legate al coronavirus. Siccome si sta chiudendo in qualche modo l'isola, come quasi tutti i paesi nel mondo, è stato vietato lo sbarco. Nel frattempo, legata a questa notizia, vi confermo che domani partirà la missione Irini, detta in greco, o Irene se preferite. È la missione che va a sostituire la missione Sofia. È una missione militare dell'Unione Europea. Il compito di questa nuova missione, che non sarà, ha detto Borrell, come la missione Sofia, è soprattutto far rispettare l'embargo sulla Libia. Per far ciò la missione sarà schierata dal 1 al 31 aprile e si posizionerà soprattutto tra Egitto e Grecia, dove gli analisti militari e i consiglieri dell'Unione Europea sostengono vi sia il più alto traffico di armi, rivolto e diretto soprattutto a Bengasi, quindi le truppe del maresciallo il ribelle, il generale Haftar. Come abbiamo più volte sottolineato da questi stessi microfoni, ribadiamo e lo diciamo sottovoce, in punta di penna, non diciamo assolutamente l'inutilità, per carità, di questa missione navale, ma è chiaro che bisogna anche andare a monitorare quelli che sono i confini terrestri e soprattutto lo spazio aereo a sud e a est dell'Egitto. Sto pensando alle catene logistiche degli Emirati Arabi Uniti, che riforniscono le truppe del generale Haftar. Vedremo come si dispiegherà e soprattutto che risultati porterà la nuova missione Irini. Ultima notizia di questo nostro corposo fascicolo di dossier internazionali ci arriva dalla Colombia, perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lodato oggi l'annuncio dell'esercito di liberazione nazionale di colombiano di dichiarare un cessate il fuoco unilaterale per il mese di aprile, gesto umanitario nei confronti del popolo colombiano che soffre la devastazione del coronavirus. Ancora una volta questa pandemia irrompe in maniera incredibile e in maniera subitanea anche in quei conflitti di lungo corso come quello appunto in Colombia. Lo stesso Guterres, lo avete sentito, lo ricorderete, alcuni giorni fa aveva chiesto un cessate il fuoco totale, messaggio ribadito e risottolineato, riconsolidato anche dal Papa. In alcuni casi evidentemente questo messaggio pare, almeno sulla carta, per ora è stato accolto. Allora, alcuni messaggi al 349-238-6666 che fanno riferimento anche ai nostri dossier che abbiamo appena elencato. Vista la pochezza dell'embargo, scrive un ascoltatore, l'unica speranza per affamare Haftar è il crollo del prezzo del petrolio. I suoi padrini avranno troppi problemi a far quadrare i conti per rimestare nel torbido. E, gentile ascoltatore, questo sostanzialmente sta già avvenendo. Se non fosse, aggiungo un altro particolare, che la mossa di Haftar, per quanto improvvida e anche, come dire, un colpo di scena a tutti gli effetti che nessuno si aspettava, è stata bollata da molti analisti come una pistola alla tempia. È stato detto, è stata usata questa metafora, è come mettere te e il tuo nemico nella stessa camera, chiudere a chiave e inondarla di gas benefico. Prima o poi morirete entrambi, bisogna solo stabilire chi riuscirà a tenere più a lungo il fiato. Allora, gli altri messaggi sono quasi tutti riferiti al dossier ungherese, per cui Peter, la prima cosa da fare è andare a Budapest. Andiamo a Budapest perché ieri si è consumata a tutti gli effetti una pagina importantissima della storia politica ungherese. Proviamo a fare un passo indietro. Nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano più volte abbiamo cercato di utilizzare alcune lenti per raccontare la pandemia e la grande attualità internazionale. Coronavirus come acceleratore, coronavirus come ghiotto opportunità, coronavirus come faro illuminante su fragilità, debolezze ma anche punti di forza dei vari paesi. E cosa illumina adesso in Ungheria è davvero difficile stabilirlo. Di certo è che il New York Times, anche il New York Times, recentemente si è accodato a una lunga fila di analisti, e in effetti anche noi qualche settimana fa avevamo già iniziato a sussurrare questa ipotesi, e in sostanza il New York Times dice: i leader autocrati amano il coronavirus. Perché? Perché consentono, visto che sono tempi di emergenza, di istituire leggi di emergenza, e si sa, chi ama il potere ama anche le emergenze, perché consente di avere maggiore carta bianca e maggiore libertà. Vi sono già un po' di messaggi proprio su questo tenore da parte vostra al 349-238-6666. Qualcuno addirittura si spinge a dire: l'ascesa di Orbán è simile a quella di Hitler e Erdogan. Qualcun altro fa un altro passo in avanti: tra pochissimo ci andremo, non è concepibile che all'interno dell'Unione Europea, simbolo di democrazia nel mondo, ci sia uno Stato autocratico di fatto come l'Ungheria. L'Europa dovrebbe prima risolvere i suoi problemi interni e poi badare di valutare l'ingresso di nuovi paesi. E poi aggiunge: bisognerebbe ammettere il fallimento della stessa UE nei confronti dei paesi Visegrad, soprattutto l'Ungheria di Orbán. A proposito di Unione Europea, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen poche ore fa ha twittato, rispondendo così alla stretta autoritaria di Orbán, sintetizzo il Twitter: le misure di emergenza non possono andare contro i nostri principi e valori fondamentali, la democrazia non può funzionare senza media liberi e indipendenti. La von der Leyen non cita direttamente l'Ungheria, ma è evidente che il dossier scottante sul tavolo a quel punto della Commissione è certamente il comportamento dell'Ungheria. Un'Ungheria che non ha mai brillato per essere ligia, come dire, devota a quelli che sono non soltanto i valori fondanti dell'Unione Europea, ma anche le più semplici e banali norme. Ricorderete il rimpallo e l'assoluto diniego per la ripartizione dei migranti, ma non solo. Vi faccio sentire adesso una voce che è interessante, interessante per due motivi. Da un lato ci dà un punto di vista strettamente europeo, perché la voce che sentirete è quella di un europarlamentare. Dall'altro, Gyöngyösi Marton è sì europarlamentare, ma anche vicepresidente esecutivo di Jobbik. Per chi non è avvezzo alla politica ungherese, Jobbik è un partito che in passato è stato tacciato, e probabilmente ha ragione, di essere un partito di estrema destra. Avevano addirittura sostanzialmente delle milizie, delle ronde, facevano ronde contro i Rom, contro le minoranze. Dopo la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, Jobbik ha subito un processo di ripulitura a tutti gli effetti, politica ma anche d'immagine, diventando poi il terzo partito dell'Ungheria e alleandosi addirittura con Viktor Orbán. Però sembra che a Jobbik e soprattutto a uno dei suoi leader, Marton, l'abbiamo raggiunto a Bruxelles, questa nuova legge che dà pieni poteri a Orbán non gli sia proprio andata a genio. Sentite la sua voce. Il voto di ieri al Parlamento ungherese è stato davvero storico. La legge è stata approvata con una maggioranza di 2/3 e tutta l'opposizione ha votato contro. Noi comprendiamo bene che è del tutto normale che in condizioni straordinarie siano approvate leggi straordinarie nel Paese, e abbiamo visto esempi di questo tipo in molti paesi europei. Certo, i governi hanno bisogno di strumenti specifici per contrastare questa emergenza nel mondo. In Ungheria, però, Viktor Orbán ha presentato una legge al Parlamento che non solo aiuta il governo ad approvare leggi di emergenza, che sono necessarie, ma dice anche che l'esecutivo può governare attraverso decreti senza alcuna limitazione di tempo. In più, i media o chiunque diffonda false notizie sul coronavirus può essere incarcerato. Noi crediamo che questi due attributi alla legge di emergenza non sono democratici e sono completamente inaccettabili in qualsiasi Stato. Una limitazione del tempo sarebbe necessaria. Sarebbe corretto che il governo gestisse il paese attraverso decreti in caso di emergenze, ma è inaccettabile che non ci sia un limite di tempo. Noi abbiamo proposto un emendamento alla legge che limita il governo per decreti a 3 mesi e dopo 3 mesi il Parlamento dovrebbe riunirsi e votare sui decreti e sul prolungamento della legge stessa. Insomma, questa legge, così com'è, è inaccettabile e va contro le leggi democratiche del nostro Paese e la nostra Costituzione. La voce e l'analisi di Gyöngyösi Marton, europarlamentare, vicepresidente esecutivo di Jobbik, raggiunto in queste ore a Bruxelles, fresco di notizia che nel frattempo nella sua Budapest si consumava, come egli stesso ha detto, una pagina di storia importante. Nella storia appunto della sua Ungheria. Un po' di considerazioni, di messaggi al 349-238-6666, questo lo leggo benché appunto non è propriamente un'offesa, ma quantomeno non c'è turpiloquio. Allora, da sanzionare l'Ungheria perché si difende? Invece la Germania e l'Olanda no, vero, siete ridicoli, Italexit subito. E poi una serie di offesi irripetibili, ma parlate di democrazia e fate sentire solo chi è dalla parte di quello schifo di Unione Europea, e poi parlate di Orbán e chiude con un pagliacci. Chiederei all'ascoltatore di argomentare un po' meglio il pensiero che, benché raffinato, devo dire, faccio fatica a cogliere. Detto ciò, torniamo a quello che è accaduto, perché altri messaggi da parte vostra, ascoltatrici e ascoltatori, cercano di fare un parallelismo su quello che sta avvenendo in Italia. Allora, premesso che non sono un raffinato osservatore della politica italiana, tutt'altro, ma equiparare quello che sta accadendo col governo Conte e il governo Orbán è assolutamente fuori luogo, perché come ha ribadito l'europarlamentare Marton, che ripeto era alleato di Orbán, e il problema del governare per decreti è la limitazione del tempo. In questo modo, con questa legge, non c'è limitazione, quindi è un governo emergenziale ad libitum. Orbán può fare quello che vuole, governando per decreti senza fine. È per questo che l'Unione Europea sta sollevando dei dubbi, è per questo che alcune associazioni, media e l'opposizione ungherese sta sollevando dubbi addirittura sulla stessa costituzionalità di questa nuova legge. Vi faccio sentire ancora la voce di Gyöngyösi Márton, europarlamentare, vicepresidente esecutivo di Jobbik, perché è utile collocare quest'ultima mossa politica di Viktor Orbán in un più generale processo che negli ultimi 10 anni ha visto l'Ungheria da un lato è stare nell'Unione Europea e ricevere anche cospicui fondi, attenzione, è utile ricordarlo, salvo poi tuonare contro Bruxelles e in moltissimi casi essere sottoposta a procedure di infrazione, addirittura ricevere sanzioni. Ma in sostanza, l'Ungheria di Orbán vuole stare in Europa o no? Sentite cosa dice Márton. This law that was adopted by the Hungarian Parliament yesterday has been widely criticized across. Questa legge adottata ieri dal Parlamento ungherese è stata criticata da molti in tutta Europa. Non credo ci sia stata una sola grande televisione o media in Occidente che non abbia criticato questa legge. E anche dalla UE ci sono state vaste critiche. Ora, le mosse di Viktor Orbán negli ultimi 10 anni sono sempre state oggetto di osservazione e valutazione attenta. Vorrei ricordare a tutti che l'Ungheria è sotto procedura per infrazione dell'articolo 7. In pratica sta subendo sanzioni, severe sanzioni, che sono davvero rare nella storia dell'Unione Europea. E tutte le volte abbiamo subito queste sanzioni perché Orbán è andato contro norme e standard democratici. Vorrei anche ricordare che Fidesz, il partito di Orbán, all'interno della famiglia politica del Partito Popolare Europeo, è sotto severe sanzioni e non ha più diritto di voto, e questo è davvero inconsueto. Quindi, ciò a cui assistiamo è che Orbán, il suo governo e il suo partito, è sotto pressione da parte dell'Unione Europea e lui, invece di pensare a cambiamenti, a fare aggiustamenti e correzioni alla sua politica, contrattacca. E quello che sta facendo adesso è continuare con questo suo durissimo anti-europeismo. E credo che le sue mosse stiano alimentando la retorica anti-europeista. Quello che temo è che tutto ciò potrebbe portare l'Ungheria a lasciare l'Unione Europea. Ma questo è qualcosa che non dovremmo permettere. E tutta la popolazione ungherese dovrebbe resistere e fermare questo processo messo in moto da Orbán e dalla sua amministrazione. Resist the Orbán administration and the government and stop this process from going on. Questa è la voce di Gyöngyösi Márton, europarlamentare raggiunto a Bruxelles, il vicepresidente esecutivo di Jobbik, un partito di estrema destra che ha però sapientemente rinnovato la sua immagine, in alcuni casi anche i programmi e in alcuni casi anche efficacemente quella che era l'ala militante, tanto ostracizzata e messa sul tavolo degli imputati da numerose ONG e associazioni per i diritti umani. Da questi stessi microfoni, anni fa, durante le edizioni estive, raccontammo di queste ronde che venivano fatte in Ungheria, soprattutto nelle zone rurali, a caccia di Rom e a caccia di ebrei. Detto ciò, quello è il passato. Jobbik è diventato un partito diverso, tant'è che ha flirtato e ha duettato con lo stesso Orbán. Adesso Orbán però, con l'ultima mossa politica, si è inimicato totalmente quella che è la sua opposizione. Questa era la sua voce, dicevo, di Márton. Vengo alla vostra voce, vi fate sentire attraverso il 349-238-6666, sms e whatsapp. Qualcuno dice: ci scandalizziamo per l'Ungheria, ma zitti sulla Cina, forse perché con la seconda facciamo affari. Ma io direi che, gentile ascoltatore o ascoltatrice, mi permetto di fare una distinzione, sempre sussurrata e con grande pacatezza. Il punto è che l'Ungheria fa parte dell'Unione Europea e, come ha ben sottolineato Ursula von der Leyen, ci sono dei valori fondanti. Non è normale che un governo, dopo sentirete meglio il profilo di Viktor Orbán e anche il suo entourage, un cerchio magico magiaro, che per carità non fa nulla di illecito, ma ci dà un'idea di come è ripartito il potere a Budapest. Dicevo, ecco, un paese che fa parte dell'Unione Europea non dovrebbe chiudere i giornali e non dovrebbe controllare la maggior parte dei media, e qui anche i paragoni con la nostra Italia sono diversi. Non mi risulta che il governo Conte abbia mai chiuso un giornale, ma dico governo Conte, potrei dire tutti gli altri governi della nostra Repubblica. Qualcun altro di voi, Orbán ha tolto la maschera. 349-238-6666 per voi. Adesso ne facciamo una piccola pausa, sentiamo come va la borsa, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Continuiamo in questo viaggio che è a metà tra la stretta attualità politica e una lungimiranza. Almeno proviamo a osservare, a capire cosa significa per l'Unione Europea l'ultima mossa di Viktor Orbán, il quale si è sostanzialmente assunto i pieni poteri. Lo ha fatto grazie a un voto parlamentare, un voto che è passato con i 2/3 della maggioranza del Parlamento, ma lo abbiamo ribadito e non capisco il senso di alcuni vostri messaggi quando dicete, Orbán è stato eletto e ha ricevuto il supporto popolare, ma nessuno qua l'ha mai negato. La stessa opposizione, Marton, come avete sentito, è stata la prima cosa che ha detto. È stato un passaggio politico storico, ha detto, senza peraltro stigmatizzarlo all'inizio. Poi si è detto preoccupato e ha ribadito i numeri. 2/3 del Parlamento hanno votato per dare a Orbán i pieni poteri. Detto ciò, levata di scudi da parte della maggior parte dei media, ma soprattutto anche dagli altri paesi dell'Unione Europea, fatta eccezione per quei leader in giro per l'Europa che invece sostengono che Orbán sia un alleato, un amico e anzi un modello da seguire. Alcuni di voi, sempre al 349-238-6666, giustamente ricordano la valanga di miliardi di euro che l'Ungheria fino adesso si è presa, salvo poi per esempio rigettare qualsiasi meccanismo di stabilità o di redistribuzione dei migranti. In buona sostanza, vedo il meglio al peggior mapiglio, oppure mi piglio il buono dell'Europa e poi quando è ora ci remo contro. Allora, c'è qualcuno che sostanzialmente mi dà dell'europeista e qua francamente qua non ci siamo, nel senso che c'è un crinale proprio secondo me da dover superare. Finché c'è l'Unione Europea io auspico che funzioni, se mi state chiedendo la mia modestissima opinione. Se e quando non ci sarà più, benissimo, liberi tutti, ma avere un paese dentro l'Unione Europea che ha questo tipo di atteggiamenti politici non è certamente salutare. Un altro ascoltatore dice: non mi piace Orbán per nulla, ma per ora siamo nei limiti democratici che il suo governo gli ha dato, speriamo non strabordi. Non vedo la differenza tra quello che la Germania sta facendo in Europa, decide indirettamente la politica di stati sovrani facendo pressioni economiche. Questo è o non è potere democratico camuffato? Così Marco, che allarga in qualche modo la sfera dei paragoni fino in Germania. Torniamo però a quello che è questa figura, Viktor Orbán, politico di lungo corso. Pensate, ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni, tra i ranghi però, tra le fila del Partito Comunista. Ma chi è Viktor Orbán? La sua vita, la sua carriera in 90 secondi. Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek egyszer nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő ereje és bátorsága ahhoz, hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot. 16 giugno 1989. 200.000 persone riempiono la piazza degli eroi di Budapest per la cerimonia di commemorazione di Imre Nagy e delle vittime della rivoluzione anticomunista del 1956. La voce che si leva sulla folla è quella di un giovanissimo Viktor Orbán. Chiede libere elezioni, il ritiro delle truppe sovietiche dal paese. «I comunisti ci hanno portato via il nostro futuro», dice. A 14 anni era segretario dell'organizzazione giovanile comunista, poi cambia radicalmente le sue idee politiche. Alla fine degli anni 80, Viktor Orbán è un giovane laureato in legge che, grazie a una borsa di studio della Fondazione Open Society di George Soros, frequenta l'Università di Oxford, dove studia scienze politiche. È tra i leader di Fidesz, un partito di ispirazione anticomunista e libertaria favorevole all'integrazione europea. Un leader casa e chiesa? Dal 1986 è sposato con Aniko Levai, avvocato e imprenditrice. La coppia ha avuto 5 figli, Rael, Gaspar, Sara, Rosa e Flora. Secondo alcuni giornalisti ungheresi, sarebbe stata proprio la moglie, cattolica praticante, a far avvicinare alla fede Orbán, che almeno fino alla metà degli anni 90 era stato un fervente anticlericale. Eletto per la prima volta premier nel 1998 e poi nuovamente nel 2010, da quel momento Orbán non ha più lasciato il potere e ha dato una svolta radicale alla propria politica, diventando uno degli alfieri delle cosiddette democrazie illiberali. Orbán ha centrato nelle proprie mani poteri sempre più significativi, ha ridotto gli spazi per la stampa indipendente e l'autonomia della magistratura, ha alzato muri al confine per fermare profughi e migranti. «Noi non crediamo nell'Europa, noi crediamo nell'Ungheria», ha dichiarato nel 2011, mentre era presidente di turno dell'Unione Europea. Con la cosiddetta legge anti-Soros, approvata nel 2018, viene imposta una tassazione del 25% alle associazioni che si occupano di accoglienza. L'allontanamento dall'Europa è sempre più marcato, al punto che Orbán ha persino proposto di rimettere all'ordine del giorno la questione della pena di morte. E con questa fotografia rispondo in parte anche ad alcune critiche degli ascoltatori al 349-238-6666 quando mi chiedevano ma quali valori fondanti dell'Unione Europea? Ecco questo per esempio, la pena di morte, ma non solo. Un po' di vostre opinioni, l'Ungheria può essere messa fuori, per me è giunta l'ora, dice un ascoltatore, di demandare una parte delle competenze nazionali a un governo europeo eletto, difesa, sanità, ovviamente politica monetaria con una vera banca federale e agli alcuni di voi ascoltatori o ascoltatrici che mi sollecitano su avere un'opinione e mi additano di essere europeista a tutto tondo, abbiate pazienza, riascoltatevi se avete tempo, se avete voglia, per carità, tante puntate in Sul Luogo Lontano in cui abbiamo sottolineato le gravi mancanze, l'assenza totale di politica estera europea, di politica della difesa europea, il fallimento in tanti dossier importanti, la Libia, l'immigrazione, il comportamento della Turchia, per cui francamente non riesco a capire sulla base di che cosa alcuni di voi, lo ripeto, una sparuta minoranza, mi additino peraltro in senso dispregiativo e non capisco cosa ci sarebbe di male come europeista. Torniamo però a un aspetto che è fondamentale, perché lo dicevamo all'inizio di questa trasmissione: se un paese all'interno dell'Unione Europea è riottoso, vi sono dei meccanismi sanzionatori, si può sostanzialmente rimbrottare questo paese e fargli capire che il suo comportamento non aderisce a quei valori fondanti. Ma come funzionano? Ci soccorre in questa analisi Gianluigi Tosato, che è professore di diritto dell'Unione Europea alla LUISS e anche Senior Fellow della CEP, la Scuola di Economia Politica Europea della LUISS stessa. Professor Tosato, buongiorno, benvenuto in Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, che idea si è fatto, professore? Innanzitutto partiamo dalla stretta attualità, cronaca politica. Questa colpa di scena, questa mossa di Viktor Orbán che si prende i pieni poteri senza un limite temporale. Che reazione ha avuto quando ha letto la notizia? Beh, non mi è parso una bella mossa, francamente, perché certo il coronavirus genera una situazione di emergenza e le situazioni di emergenza possono giustificare delle deroghe al sistema costituzionale, ma però sempre entro certi limiti. Allora, per quello che si capisce, io non ho letto direttamente il provvedimento, ma per quello che si capisce questi limiti non sono rispettati. E tutto si concentra in un'unica persona, senza limiti, senza limiti di tempo, senza controlli da parte del Parlamento, sì, senza controlli da parte dell'opinione pubblica, siamo al di là di quelli che sono i requisiti di un sistema democratico, almeno come lo intendiamo all'interno dell'Unione Europea. Sì. La voce che state ascoltando è quella del professor Gianluigi Tosato, è un giurista esperto in particolare di diritto dell'Unione Europea. Sostanzialmente con lui esploreremo quelli che sono i territori entro i quali si può muovere uno Stato membro dell'Unione stessa. Quanto si può sgarrare, quanto si può derogare, lasciate stare le questioni meramente economiche e finanziarie, non è mia competenza né di questo programma, ma quello che ha fatto Viktor Orbán sta evidentemente mettendo in crisi una parte dell'architettura normativa stessa dell'Unione Europea. Facciamo una piccola pausa. Professor Tosato, stia con noi, sentiamo come vanno le strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. ancora buona giornata e ben ritrovati. L'ultima tappa del nostro viaggio, se preferite, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Stiamo cercando di capire e analizzare quelle che sono state le mosse di Viktor Orbán in Ungheria. Pieni poteri, senza limite temporale e preoccupazione da parte dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, a parte di osservatori, analisti, politici. Cercheremo di capire se anche un giurista, come il professor Gianluigi Tosato, è ugualmente preoccupato. Professor Tosato, ricorro alla sua esperienza e alla sua competenza perché già dal 2018 il Parlamento europeo ha sancito a maggioranza l'avvio di una procedura contro l'Ungheria, proprio per le preoccupazioni relative allo Stato di diritto nel Paese. È stato contestato il sistema costituzionale ed elettorale, la privacy e la protezione dei dati, la libertà di espressione e religione, la libertà accademica e di associazione, la parità di diritti, in particolare per rifugiati e minoranze come Rom ed ebrei. La procedura è sancita dall'articolo 7 dei trattati dell'Unione Europea. Ci aiuta a capire come funziona, come e perché si infrange l'articolo 7 e quali sono le sanzioni possibili? L'articolo 7 essenzialmente attribuisce un potere di decisione al Consiglio, e il Consiglio è un'istituzione formata da rappresentanti dei governi nazionali. L'iniziativa per mettere in atto la procedura dell'articolo 7 la può prendere la Commissione o la può prendere il Parlamento europeo, e questo è avvenuto. Lei ha ricordato adesso già un'iniziativa del Parlamento europeo proprio nei confronti dell'Ungheria. Quindi diciamo che Orbán è in qualche modo recidivo. Se non che questa procedura non è una procedura semplice, è una procedura che richiede una delibera all'unanimità del Consiglio, e queste delibere all'unanimità del Consiglio non sono molto semplici, e prima di arrivare alla delibera del Consiglio si deve in qualche modo stabilire un certo dialogo con lo Stato che è oggetto della procedura. Sì. Ed è quello che per il momento sta avvenendo. La procedura, come ricordava lei, è partita nel 2018 con un'iniziativa del Parlamento europeo, e quello che è avvenuto fino adesso è che si sono svolte davanti al Consiglio due audizioni dell'Ungheria durante il 2019, sì. Ma proprio all'inizio del 2020, con la delibera, il Parlamento europeo si lamentava perché la procedura non andava avanti e perché il Parlamento europeo non era stato coinvolto in queste audizioni avvenute con i rappresentanti ungheresi. Farraginosità europea in questo caso. Più in generale, professor Tosato, com'è possibile far rispettare quelle che sono le regole dell'Unione Europea? Se uno ci vuole stare dentro deve stare alle leggi del giardino europeo. Come funzionano le sanzioni? In passato sono state comminate delle multe anche all'Ungheria che non rispettava la redistribuzione dei migranti, ma non sembrano servire. Non è il caso di, in vista di una nuova Europa dopo il coronavirus, potrebbe essere un'occasione, ridisegnare anche i meccanismi sanzionatori e farli diventare un pochino più efficaci, secondo lei? Ah, certo, certo. Sarebbero delle modifiche degli attuali trattati benvenute, ma tenga presente questo, che le modifiche dei trattati non sono facili. Di nuovo ci vuole una procedura che coinvolge le ratifiche di tutti i parlamenti nazionali, e tutte le modifiche che sono fatte fino adesso hanno incontrato delle grandi difficoltà. Ed è immaginare che anche auspicabili nuovi sviluppi dell'integrazione europea incontrerebbero analoghe difficoltà. Per questo a me pare che intanto bisogna cercare di avvalersi appieno e di utilizzare appieno gli strumenti che abbiamo. C'è l'articolo 7, ma c'è anche l'articolo 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea che prevede una procedura di infrazione. Non so se lei lo ha ricordato prima, ma questa procedura di infrazione è stata avviata, e questo lo può fare la Commissione per portare la questione davanti alla Corte di Giustizia. Sì. Di nuovo, la Corte di Giustizia cosa può fare? Può constatare l'esistenza dell'infrazione, può anche applicare delle multe, ma però non è che può modificare una delibera interna di uno Stato membro di carattere costituzionale. Certo, sarebbe un conflitto di poteri, evidentemente. Gli strumenti che abbiamo attualmente all'interno dell'Unione Europea sono uno di carattere più giurisdizionale e l'altro di carattere più politico. Sì. Lo strumento giurisdizionale è questa procedura di infrazione che si sviluppa tra la Commissione e la Corte di Giustizia, quindi due istituzioni sovranazionali. L'altra procedura è l'articolo 7, che però è imperniata su una istituzione intergovernativa e richiede quindi la decisione unanime di tutti i governi nazionali. E questo è probabilmente il nodo, no, su cui ci si incancrena in qualsiasi discussione, anche in realtà a livello politico, mi verrebbe da dire, professor Gianluigi Tosato. Farraginosità, forse questa è una delle caratteristiche di questa Europa, ma non voglio fare qualunquismo e generalizzazioni. Però la ringrazio tantissimo, professor Tosato, perché ci ha illuminato su quelli che sono i limiti e le fragilità anche dell'assetto normativo europeo. Grazie mille, professore, buona giornata, buon lavoro. Un saluto. Allora, faccio presente anche, intanto al 349-238-6666, vedo che vi state dividendo tra chi ha timore che Orbán abbia preso una deriva autocratica, che addirittura sarebbe il prodromo di una dittatura vera e propria. Qualcun altro dice dovreste sentire gli ungheresi perché Orbán è stato votato a grande maggioranza, ma nessuno l'ha mai negato. Però tenete conto anche di una reazione politica: il Partito Popolare Europeo ha sanzionato Fidesz, che è dentro alla stessa famiglia politica. Il che vuol dire che gli stessi popolari europei, e sapete bene quali sono i partiti che sono dentro la famiglia popolare europea, compreso quelli italiani, hanno tolto il diritto di voto al partito di Orbán. Questo evidentemente significa qualcosa, quantomeno dal punto di vista politico. Andiamo avanti con l'analisi e con l'esplorazione, perché tutti parlano di Viktor Orbán. In pochi parlano forse del suo cerchio magico. Ascoltate chi sono tutti gli uomini di Orbán. Con le ultime riforme, il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha ottenuto pieni poteri ed è ormai un uomo solo al comando. Ma la sua scalata è stata resa possibile da una serie di figure che lo circondano e formano un entourage spesso poco conosciuto, ma di forte peso. Si tratta di uomini e donne che si muovono in un'area grigia tra business e affari di Stato, imprenditori e politici che hanno reso possibile l'ascesa di un potere assoluto all'interno di una democrazia europea. Uno dei personaggi chiave è l'imprenditore István Tiborz, imprenditore a capo della Helios Innovative, una società che solo nel 2014 ha ottenuto appalti pubblici per l'equivalente di circa 12 milioni di dollari. Tiborz, oltre a essere uno degli imprenditori più vicini a Orbán, è anche suo genero, dato che ha sposato la figlia di Orbán, Rahel Orbán. Il coinvolgimento dei membri della famiglia allargata in affari pubblici per Orbán è un tema ricorrente. L'imprenditore Roland Sebastien, ad esempio, titolare di una società che nell'ultimo anno ha ottenuto appalti per circa 6,2 milioni di dollari, è socio di Imre Okros. Okros è il cognato del primo ministro Orbán, dato che è il marito di Gisela Levai, sorella di Aniko Levai, moglie di Orbán. Ma la strategia di Orbán non riguarda solo imprenditori vicini alla famiglia, ma anche tycoon capaci di garantirgli una solida presa sui media. È il caso di Peter Schatz, editore di tabloid vendutissimi come Ripost e di canali TV che incensano il primo ministro. Schatz ha esportato la strategia mediatica di Orbán anche in Slovenia e in Nord Macedonia, acquistando giornali e tabloid che veicolano il messaggio ultranazionalista di politici sloveni e nord macedoni vicini a Orbán. Le strategie internazionali di Orbán, tuttavia, si reggono anche su altri imprenditori come Zsolt Nyerges e Lajos Simiska, due influenti uomini d'affari tra i principali finanziatori del partito di Orbán, Fidesz. Prima delle elezioni del 2010, i due hanno perfino fatto un viaggio d'affari insieme. Dove? in Russia, a Mosca, dove secondo un'inchiesta di Direct 36, i due uomini d'affari hanno incontrato un alto funzionario dell'FSB, i servizi segreti russi, eredi del KGB. E così, con questa fotografia, tutti gli uomini di Orban, il suo cerchio magico fatto di politica e di business, niente di illecito, assolutamente, lo ribadisco ancora una volta, però in qualche modo va a rispondere a quelle che erano alcuni timori o quantomeno suggestioni. Al 349-238-6666 qualcuno diceva: attenzione, si allontana dall'Unione Europea, va nelle braccia della Russia. E la scheda citava Direct 36, vi faccio sentire la voce di Gergo Saling, è un giornalista, dirige questo centro investigativo di giornalismo ungherese. Gli abbiamo chiesto, Antonio Talli l'ha appena raggiunto, se il coronavirus possa essere usato come strumento per un giro di vite sulla stampa libera. Sentite cosa dice. I run an investigative website in Hungary which has been pretty much critical. In Ungheria dirigo un sito giornalistico che è stato molto critico nei confronti di molte delle mosse di questo governo. Tuttavia penso che queste nuove leggi non aggiungono nulla di nuovo agli attacchi contro il nostro lavoro. Molti critici sostengono che la riforma del codice penale che punisce la diffusione di false informazioni sul coronavirus potranno essere usate contro la stampa indipendente. Da parte mia credo che il governo abbia già molti strumenti di questo genere. Virus can be used against free press. Un'ultima battuta da parte di Gergo Saling, direttore di Direct 36, centro investigativo di giornalismo ungherese. La paura è quella che una volta finita l'emergenza coronavirus, Orbán non restituisca i pieni poteri, ma rimanga a capo di tutto. Sentite cosa dice. This scenario doesn't seem realistic to me, or... E il giornalista, che lo ricordo è un fiero oppositore delle mosse del governo, come lui stesso ha ribadito, Gergo Saling, ha detto: questo scenario non mi pare realistico, non mi sembra che qualcosa che abbia un senso politico al momento, ma non sappiamo cosa c'è nella testa del primo ministro. Invece so cosa c'è nella testa di Peter Bescapè, ed è una parola sola. Hotel!